Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Radiobook. Oggi parliamo di Agatha, come un funerale ti cambia la vita. È un romanzo, è stato scritto da Lara Zavatteri, la nostra collaboratrice del blog, che è anche giornalista. La storia parla di Agatha, una vecchietta che è rimasta da sola e che decide di restare per sempre in isolamento. Un giorno però trova sotto la porta di casa un volantino che reclamizza una casa di riposo poco lontana. Agatha capisce che a qualcuno, però a chi, dei suoi vicini, dà fastidio quel suo isolamento. E decide di fare qualcosa per non essere mandata via di casa. Come rientrare in società? È difficilissimo. L'idea di Agatha è bizzarra, perché sceglie di partecipare ai funerali per ricomparire. Ai funerali si parla con gente, non troppo per rispetto del morto, ma neanche troppo poco. Si può partecipare, ma svignarsela anche senza essere visti. Insomma, i funerali, secondo Agatha, sono il momento ideale per farsi rivedere dopo decenni di eremitaggio. Inizia così l'avventura della vecchina, che porterà la cara Agatha a presenziare diversi funerali, uno più strambo dell'altro, e a conoscere gente ancora più strana. Mentre Agatha cerca di rientrare in società intorno, grazie alla faccenda dei funerali e a ciò che ne conseguirà, la gente ricomincia a parlarsi, a sorridere, a ridere. Insomma, il piccolo gesto di Agatha cambia la vita della comunità in cui lei vive. Agatha è anche colei che scrive un blog. Infatti, online potete trovare Un sorriso con Agatha, dove quotidianamente vengono pubblicate cose divertenti da Agatha, alias Lara Zavatteri. Che si tratti di notizie positive, di un video o di un libro ironico, l'idea è di dare voce al personaggio del libro creando un luogo virtuale online dove tutti possono partecipare inviando il loro materiale. Le modalità di partecipazione le trovate sul blog. L'unico vincolo? Che sia qualcosa di positivo, per scrittori, artisti e per chiunque. Adesso vi leggerò un estratto che è un po' più lungo del solito, ma molto bello. Le prime volte non era stato facile. Per Dio, non era stato facile per niente, eppure il tempo e l'abitudine pian piano ci avevano fatto incredibilmente la mano. Adesso Agatha partecipava a tutti i funerali, anche quelli della gente che poco conosceva. Le prime volte cercava sempre di sapere qualcosa della gente che conosceva pochino, non perché le importasse, ma bisognava sapere qualche aneddoto per attaccare bottone, no? Poi un po' alla volta quelli erano venuti da sé, senza bisogno di sapere niente. E così Agatha, una donna che aveva superato da qualche tempo i 70, ma ne dimostrava molti meno, l'età vera infatti non la sapeva nessuno, aveva ricominciato a uscire dalla porta di casa, aveva trovato il modo per socializzare nuovamente con la gente. I funerali. Vedova da alcuni decenni e attiva, beh, praticamente più in nulla, Agatha aveva ricominciato a farsi la sua piccola vita. Era capitato tutto all'improvviso, quel suo isolarsi da tutti dopo la morte del marito, seguita a pochi mesi da quella del figlio. Lui era morto per un ictus, mentre il figlio di un incidente d'auto. D'improvviso Agatha non aveva più né voglia né forza per alzarsi o fare nulla, pagare la spesa, pagare le bollette, andare a prendere il giornale, tutte quelle piccole cose che normalmente uno fa dopo colazione. Aveva lavorato come impiegata in un ufficio da quando aveva 20 anni e con la pensione era arrivato anche il sospetto, poi avvalorato con il tempo, che stare a casa a fare nulla non le piaceva. Per questo si era poi data a vari hobby. Il giardinaggio, corsi di ceramica, cucina, bricolage, lingue, perline, scultura del legno, del rame, dell'acciaio. Aveva frequentato tutti i corsi organizzati nella sua zona, per anni prima che morisse il marito, in realtà. Ma poi si trovò di colpo da sola. Tutti quelli del vicinato si accorsero dei suoi mutamenti. Per prima cosa Agatha installò delle tende oscuranti, aggeggio che non aveva mai avuto alle finestre, che erano sempre ornate da eleganti tendine di pizzo. Poi smise di rispondere al telefono. E infine pure di aprire a chi bussava la porta. Dopo alcuni mesi in quello stato, qualche vicino aveva pensato bene di mandargli un assistente sociale. Non l'avesse mai fatto. Agatha non lo fece entrare nemmeno in casa. Restarono lì sulla porta, con Agatha in tuta, le ciabatte e i capelli lasciati allo stato brado. Spuntavano ciocche da un lato, l'altro era appiccicato alla testa. E nel frattempo sbraitava che voleva solo essere lasciata in pace da tutti. L'assistente, sconcertata, se n'era andata e non aveva più fatto ritorno. I vicini controllavano sempre se in casa c'era qualche movimento, dietro le tende. Insomma, qualcosa si notava. Almeno sapevano che era viva. A parte questo, però, nessuno provò più ad avvicinarsi a Agatha. E lei fece lo stesso con il mondo. Durante i suoi corsi aveva imparato a usare internet e con il computer di casa faceva tutto senza muoversi. Bollette, tasse, spesa, giornali, riviste, vestiti, scarpe. Leggeva le notizie. Se aveva qualche problema medico, si faceva mandare delle pastiglie dalla rete, ignorando che la maggior parte delle volte non si sa che cosa realmente ci sia in quelle pillole che sono reclamizzate. Doveva essere stato per quello che un giorno, all'improvviso, dopo aver ordinato e ingoiato un farmaco contro la tosse, si era ritrovata blu, nello specchio del bagno. Una volta si era persino svegliata abbaiando. Ma Agatha non ci faceva caso. Dovevano essere effetti collaterali. Ridiventò bianca e rosa, come era sempre stata, e non si trasformò in un canide. Gli unici esseri umani con cui scambiava qualche parola, il minimo indispensabile, erano i corrieri, quelli che le portavano a casa ciò che ordinava. Agatha pagava e ringraziava. Loro non si trattenevano, dicevano che avevano moltissime consegne da fare. E la vecchina, ovviamente, non era interessata. Non le importava se fosse vero o meno, anzi, quella poca loquacità le andava proprio a pennello. Durante il giorno guardava la TV, acquistava online, giocava ai giochini su Facebook, si preparava da mangiare. E erano sempre solo cose surgelate, perché non aveva più voglia di cucinare. Quando ne aveva voglia, beh, si dedicava a altro. Non aveva animali domestici, quindi non doveva accudirli. Quel tran tran proseguì per anni, mentre fuori la vita continuava. La gente moriva e nasceva, si alternavano le stagioni, iniziavano nuovi lavori, altri ne terminavano. Agatha non si accorgeva di nulla. Era chiusa nella sua casa scatola, le bastava e avanzava la vita che faceva. Un giorno però trovò sotto la porta, in un bel giorno di primavera, insieme a delle foglie secche della passata stagione, un volantino che qualcuno aveva infilato lì. Una casa di riposo poco lontana. A quanto pareva c'erano tutti i comfort. Dalla camera privata, la TV, il soggiorno, il giardino, la piscina, le attività ludiche, i pasti decenti cucinati da altri, il paradiso dell'Eden. Ma la maggior parte della gente che ci finiva neanche sapeva più distinguere il suo dito da un grissino. Era capitato spesso che qualcuno provasse a mangiarsi la mano nella casa di riposo. Sbavava laghi di saliva, urlava, si buttava contro i muri. Gettava oggetti dalla finestra o sbraitava parolacce e bestemmie indicibili che mai avrebbe pronunciato se fosse stata in sé. Insomma, quella magnifica residenza era in realtà un abbandono da figli e nipoti che non si degnavano mai di andare a trovare gli ospiti, neanche di domenica. Agatha pensò a uno scherzo, ma chi poteva avere ancora voglia di fare uno scherzo? E se qualcuno si fosse preoccupato di quella sua vita strana, solitaria, e avesse deciso di avvisare ancora i servizi sociali? E se l'avessero cacciata in quel posto con la forza? Già si immaginava l'ambulanza, lei stretta come un verme in una camicia di forza. E chissà quante pastiglie le avrebbero dato. Decise di reagire, non poteva permettere che ciò accadesse. Come fare? Come uscire di nuovo, però? Era diventata quasi una leggenda, i bambini passavano accanto alla sua casa e avevano paura. Neanche lei fosse una strega o robe del genere. Bisognava trovare una soluzione. Per prima cosa, tolse le tende oscuranti, le sostituì con quelle riposte anni prima di pizzo bianco. Sperava che la cosa si notasse. E difatti la notarono tutti. Poi decise cosa avrebbe fatto per rientrare nella comunità. Avrebbe partecipato ai funerali, lì sì che poteva parlare con altri. Avrebbero capito che non era il tipo da buttare in una casa di riposo, che era a posto di fisico e di mente. L'avrebbero persino trovata piacevole, ma sì, i funerali sarebbero stati la soluzione. E fu così, per paura di finire in un ospizio, che tutto iniziò. Agatha non aveva la minima intenzione di rinunciare alle sue comodità. Non voleva neanche iniziare a pagare tutto senza spostarsi da casa. Insomma, doveva agire prima di ritrovarsi a urlare ingiurie vomitando pastiglie legate a una sedia. Decise che i funerali erano la salvezza. Si rendeva conto. Sì, se ne rendeva conto che era un'assurdità, e forse lo era. Però valeva la pena provare. Ai funerali la gente parlava. Non troppo, ma nemmeno troppo poco. Insomma, notavi le persone, ma di striscio. Quindi lei poteva andarci, svignarsela al momento giusto, senza destare sospetti, ma facendosi notare. Erano anni che Agatha non partecipava a un funerale, temeva di non ricordarsi nemmeno che cosa bisognava dire o fare, non sapeva che mettersi. Quelle prime settimane, comunque, non morì nessuno, mentre lei tremava al pensiero dell'arrivo dell'assistente sociale o di un altro volantino sotto la porta. Fu solo la terza settimana che scomparve una donna del vicinato, centenaria, la signora Olga, che fino all'ultimo si era rifiutata di morire. Insomma, Agatha con trepidazione aveva atteso quelle prime morti e era arrivata la signora Olga. Non sapeva ancora nulla Agatha, ma notò l'annuncio funebre sul giornale a cui era abbonata. Trillò di gioia. Qualcuno era andato all'altro mondo. Era ora. Aprì l'armadio e ne tirò fuori due completi, uno nero e uno grigio scuro. Li provò entrambi perché era indecisa, ma poi scelse quello grigio. Faceva paura ai bambini e forse un po' anche agli altri, quindi era meglio evitare il nero. Il funerale era per il giorno dopo, quindi Agatha ebbe il tempo di trovare anche le scarpe da abbinare. Le prese su un catalogo su internet, prese una borsettina acquistata online, si acconciò i capelli. Beh, quello lo doveva fare da sola se non voleva dover andare dalla parrucchiera. E di fatto lo fece. Si fermò poi al tavolo della cucina, davanti a un biglietto e una busta bianca, di quelli che si usano per le condoglianze. Cosa scrivere? La signora Olga aveva due figli, ma Agatha non li aveva mai frequentati. Dubitava che si ricordassero della sua esistenza. Pensò mentalmente a tutte le frasi che di solito si scrivono. In questo doloroso momento vi sono vicina. Ma come scrivere una tale idiozia se non li conosceva nemmeno? Condivido il vostro dolore. Ma perché scriverlo se non era vero? Ad Agatha, francamente, la signora Olga non era nemmeno mai piaciuta granché. Pace all'anima sua, scrisse allora firmando solo Agatha. Tanto, se anche i figli non la conoscevano, era l'unica con quel nome del vicinato. Avrebbero fatto presto a capire chi era. Così il giorno dopo Agatha, reclusa in casa da decenni e vestita di tutto punto finalmente, varcò la porta di casa con il suo tailleur grigio, il suo bigliettino bianco e una paura fottuta di quello che la gente avrebbe pensato vedendola. Non restò delusa. Davanti a casa della signora Olga c'era già una folla e vederla uscire di casa. Quella specie di talpa umana che non si vedeva mai, neanche fosse uno spettro. Insomma, lasciò tutti senza parole, così. Agatha si fece coraggio. Ma che se ne andassero al diavolo? Lei alla casa di riposo non ci sarebbe andata, punto e basta. Sarebbe stata al funerale, avrebbe ciarlato con qualcuno, e in questo modo il suo piano avrebbe cominciato a dare i suoi frutti. Chiuse a chiave la porta di casa, ripose tutto nella borsettina e con un sospiro si incamminò verso la casa della defunta. Oggi, in via del tutto eccezionale e vista la particolarità della tematica che stiamo affrontando in questa puntata, parleremo di un'altra protagonista di un romanzo che vive in isolamento. Stavolta si tratta di una ragazza giovanissima e il romanzo è La strega di quartiere di R.K. Moore, tradotto in italiano. La protagonista si chiama Henrietta e, essendo una strega sfortunata che attira tutte le sfighe del mondo, ha deciso di vivere da sola in una casa isolata in cui non va mai nessuno. Nella villa accanto però decide di trasferirsi qualcuno e lì iniziano i guai. Nessuno aveva mai visto Mrs. Blaisdell correre, neppure durante i suoi anni da preside della scuola elementare del paese. Quindi fu una sorpresa notevole vedere la donna ansimare sulla strada principale di Little Changeling. Andava talmente rapida che quasi travolse una coppia di mamme davanti all'ufficio postale. «Scusate!» gridò guardandole a malapena. Prestava a malapena attenzione alla strada, si recò verso la porta dell'edicola e fissò le persone che vi erano dentro. «Che problema c'è, Audrey?» esclamò Maurice, guardandola da dietro la cassa. Mrs. Blaisdell si aggrappava al reparto delle bibite e respirava affannosamente. «Aveva paura che finissero i nuovi biglietti della lotteria o cosa?» Sua moglie Merle sedeva lì accanto. Applicava uno strato di smalto rosso alle unghie dei piedi e era simpatica come sempre. Ma no, tesoro, Mrs. Blaisdell pensa che la lotteria sia opera del demonio. No, Mrs. Blaisdell? No, rispose quella e il suo respiro non aveva ancora ripreso un ritmo regolare. Guardò i suoi ex studenti. Penso però che sia uno spreco di tempo. Vuole accomodarsi? Fece il giovanotto che era in edicola per prendere il giornale del mattino. Sì, buona idea. Alfie, aiutami, facciamola sedere, disse Maurice. Mary, avanti, libera la sedia. Mrs. Blaisdell fece segno di no con la mano. Non occorre, è solo che non sono abituata a correre. Maurice si fermò davanti alla cassa e incrociò le braccia. Audrey, che cosa succede? Non sa starti lontana, Maurice, disse Alf. Meryl continuava imperterrita a applicare lo smalto. La casa, disse Mrs. Blaisdell. La sua? Ma no, certo che no! Oddio, da quant'è che vivete tutti a Little Changeling? La casa! Meryl si destò improvvisamente. Qualcuno l'ha comprata? Mrs. Blaisdell annuì e la donna sollevò le sopracciglia. Pensavo sarebbe rimasta abbandonata per sempre. Enid, mia sorella, mi ha appena chiamata. Sua sorella l'ha comprata? No! Derek, il suo vicino è un agente immobiliare. Un uomo ieri ha visto la casa. Così, nei loro archivi. E l'ha acquistata seduta a stante senza neppure entrarci dentro. Oddio, un pazzo! Esclamò Maurice. Secondo Ennis? Beh, in realtà secondo Derek, l'uomo verrà qui domani. Dovremmo avvisarlo, no? Questo vuol dire che qualcuno vivrà in quella casa, vicino a lei? Oh, avanti, scommetto che quel poverino la pagherà cara. Il chiacchiericcio e i mormorii aumentavano. Alf li guardò. Magari lui sarà immune a quella donna. Ma non dire sciocchezze, fece Meryl. E poi guardò Mrs. Blisdale. Come si chiama? Non lo so. Lo avvisiamo o no? Perché mai? Nessuno ci ascolta mai. Guarda che fine fanno tutti. La porta si aprì e un labrador nero entrò provocando il caos. Maurice, fai qualcosa! Fece Meryl. Rupert, avanti! Fece una voce dalla porta. Un uomo alto entrò, portando con sé l'odore della professione, il contadino. Il labrador si fermò. Buongiorno, Graham. Meryl fece eco poco dopo. Non dirmi che ti sono arrivati i giornali, li ho consegnati io stessa. No, grazie, ho visto Audrey correre qui e mi sono chiesto che cosa fosse successo. Mrs. Blisdale arrossì. Tutti sapevano che aveva un debole per Graham. Oh, grazie, Graham, sto benissimo. Ma qualcuno ha comprato la casa? Cosa? Ma chi? Un uomo, un cittadino, è tutto ciò che so. Ma sa che... Non credo, ma verrà domani a guardare la proprietà. Ci pensi, l'ha comprata senza vederne l'interno. In bocca al lupo quel poveretto. Rupert, sta fermo! Il contadino chiuse la porta uscendo, cercando di riprendere il suo cane. Nel frattempo, Annie Wilson era davanti alla finestra della cucina e ascoltava la pioggia cadere. Qualcuno potrebbe essere fuori a guardarci, disse sospirando. Tipo quelle persone che ti chiamano professoressa McGonagall, disse una voce suadente. Accendi la luce e vedremo. No, non importa. Cosa succede? Ti senti triste? No, e invece sì. E lo sai sempre più spesso. Ma ci sei tu. Non dire sciocchezze, so che preferiresti un essere umano. Tip era illuminato dalla luce della candela. No, farei solo del male a quelle persone, rispose Annie. Avanti, non essere triste, apriamo una bottiglia di vino. Non puoi bere vino, rispose Annie. Lo so, ma tu diventi divertente quando sei alticcia. Annie sorrise e sbadigliò. Credo che andrò a dormire presto. Attenta alla mensa! Troppo tardi. Annie aveva già sbattuto il capo contro la mensola dei libri, nonostante l'avvertimento di Tip. Era la settima volta quella settimana. Era sorprendente che il suo scheletro fosse ancora intatto. Vuoi che spenga la candela? No, non sono stanco ancora. Annie schioccò le labbra e guardò il suo amico. Quindi trascorrerai la notte a parlottare con te stesso? Ehi! Annie rise. Vedi? So quali sono i tuoi passatempi notturni, Tip. Ah. Cosa farei senza di te? Sospirò poi. Dov'è il gatto? Non lo so, sarà in città. Ci sarà dato la bella vita, beato lui. Beh, buonanotte. Annie spostò Tip e poi indossò il pigiama. Mentre si lavava i denti, le accaddero due cose. Inciampò sulla gamba del letto, tentando di raggiungere il lavandino, e poi le finì il dentifricio in un occhio. Era triste. Spense la luce e si mise a letto. Se non altro lì non sarebbe potuto accadere nulla. Anche oggi terminiamo la nostra puntata. Vi ricordo che gli estratti che abbiamo letto sono Agatha, come un funerale può salvarti la vita, di Lara Zavatteri, e La strega di quartiere, di R. K. Moore, in traduzione italiana. Trovate il primo su Amazon, edito da You Can Print, e il secondo su Google Books. Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana!